Diplomazia sotto scacco, i governi imbarazzati non replicano a Wikileaks, Berlusconi sereno, dice Frattini. Avanti piano, l'economia italiana riprende ma non decolla, secondo Bruxelles a trascinare è la Germania. Università in piazza, anche sul tetto del CERN a Ginevra, la protesta dei ricercatori italiani in fuga all'estero. Scomparsa da venerdì una ragazzina di 13 anni nel Bergamasco, ancora nessuna traccia. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Un uomo incapace, vanitoso, inaffidabile, fiaccato dai suoi festini, scrive così Elizabeth Diebel, la numero 2 dell'ambasciata americana, a una fonte interna, riferendosi a Berlusconi. Messaggi riservati tra diplomatici che sono diventati pubblici da ieri sera e stanno scatenando un vero e proprio putiferio, anche in Italia. E allora da casa nostra partiamo e andiamo a Roma da Elisabetta Fiorito. Gossip scadente per il ministro Ignazio La Russa, vogliono distruggere il mondo secondo il ministro Franco Frattini, questi i commenti allo scandalo Wikileaks, mentre il premier Silvio Berlusconi avrebbe accolto le rivelazioni del sito americano facendosi una risata. Berlusconi viene descritto dalla diplomazia statunitense come incapace di governare perché troppo stanco dai parti selvaggi. Il ministro degli esteri Franco Frattini interviene a Doha, ai microfoni del nostro Nicola Filippone, accusa Wikileaks e manda anche un monito all'opposizione. Sentiamo Frattini. Dal suo punto di vista personale evidentemente non si sente attaccato, colpito, offeso. Devo dire sinceramente che molte delle notizie che abbiamo letto erano già uscite sulle prime pagine dei giornali di opposizione da molto e molto tempo. L'opposizione però attacca, per il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani c'è poco da ridere, quello che emerge conferma in modo inequivocabile che il Presidente del Consiglio nuoce alla reputazione dell'Italia nel mondo, mentre per Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori anche gli Stati Uniti sfiduciano il Premier. Mentre oggi Berlusconi è in Libia da Gheddafi e proprio i rapporti con il leader libico e con il Premier russo Vladimir Putin sono al centro delle critiche degli americani. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Sullo sfondo resta un tema, queste rivelazioni potranno far traballare i rapporti diplomatici tra Italia e Stati Uniti? Cristina Carpinelli lo ha chiesto a Stefano Silvestri dell'Istituto Affari Internazionali. Che ci siano questo tipo di informazioni che circolano a livello diplomatico era cosa nota, bisogna pensare che appunto questo era materiale riservato interno americano e quindi come tale doveva essere trattato. Io non credo che questo danneggerà in maniera sostanziale i rapporti americani, italiani o degli America con altri paesi, soprattutto europei o alleati tradizionali. Potrebbe invece danneggiare molto di più i rapporti con altri paesi in situazioni più delicate, penso a molti paesi arabi, alcuni paesi asiatici tipo il Pakistan o l'Afghanistan. Una cosa che mi ha sorpreso molto è il linguaggio che viene utilizzato all'interno di queste mail, che seppur riservate erano comunque comunicazioni di lavoro. In parte dobbiamo pensare che la società americana è meno formale della società europea, questo chiunque abbia frequentato, non so, per esempio delle lezioni in un'università americana sa che anche gli studenti si rivolgono ai professori in una maniera completamente diversa di quello che accade in un'università italiana. E questo dunque, dice Stefano Silvestri. Non c'è angolo del mondo però che si salvi dall'attacco di Wikileaks in queste ore, pubblicate online migliaia di documenti, molti dei quali inquadrano le dinamiche di politica internazionale, come le rivelazioni sul regime di Teheran. Nelle note diplomatiche americane si legge che il re saudita Abdullah ha ripetutamente esortato gli Stati Uniti ad attaccare l'Iran per mettere fine al suo programma di armamento nucleare. Il governo tedesco si è detto preoccupato, per noi nessun danno, dice il governo israeliano. Per l'Unione Europea gli Stati Uniti restano uno dei partner chiave più strategici, si è affrettato a commentare la portavoce dell'alto rappresentante dell'Unione Europea Catherine Ashton. Nessuno entra però nel dettaglio. Quel che stupisce, già l'abbiamo detto nel materiale pubblicato, è davvero il linguaggio. Allora con noi c'è il nostro esperto di satira di GR24, Dario Ceccarelli. Ciao, buongiorno Anna, Dario. Buongiorno. Allora, sei d'accordo? Sì Anna, come dici tu, quello che colpisce è il linguaggio, è un linguaggio da cortile, da caserma, che mai ci aspettiamo dai potenti del mondo. Questi fanno satira da soli. Infatti stamattina il mio grafico sulle rivelazioni Berlusconi era: ma dove sta la notizia che sia amicone di Putin è noto, quanto alle feste selvagge? Beh, anche questo l'abbiamo sdoganato dopo la nipote di Mubarak. Poi divertente quando scrivono che il premier è debole perché non ha tempo di riposare, cioè, così. Comunque, detto questo, certe frasi, anche se erano meglio riservate, colpiscono. Esilarante la descrizione di Gheddafi: usa il butulino e non si muove senza la sua infermiera bionda e procace. Anche il leader della Corea del Nord, descritto come un vecchio ciccione, è meglio di una comica. E anche la Merkel, poco creativa, non è male. Del resto le peggiori verità si dicono col sorriso sulla bocca. Attenzione però, perché il linguaggio non deve essere un diversivo, tutti questi documenti non nascondono solo burle. Sì, c'è il rischio di mandare tutto in burletta, e soprattutto perché poi sullo sfondo ci sono bombe atomiche, l'Afghanistan, i destini del mondo. Quello di far burletta è un rischio col quale noi italiani ci stiamo confrontando da tempo. Ormai, a furia di abbassare l'asticella, si perde qualsiasi valore, tutto viene metabolizzato. Ma almeno gli americani queste cose le dicevano, scrivevano di nascosto. Il problema è quando certe cose le si dicono pubblicamente. Le mamme di una volta raccomandavano: non farmi fare brutte figure. Ecco, sarebbe bene ricordarlo a chi ha delle responsabilità e a chi, quando dà il voto, ha uno strumento in più per giudicare. E grazie allora anche a Dario Ceccarelli. Wikileaks fa tremare l'America, al di là di tutto questo, un gioco per destabilizzare il mondo, dice il ministro degli esteri italiano Franco Frattini. Torneremo ancora a parlarne, questa volta guardando la vicenda da oltreoceano, in America 24 con Mario Platero alle 13.45. E tra i documenti di Wikileaks, dicevamo, c'è anche la rivelazione di come i paesi arabi del Golfo abbiano tentato di convincere gli Stati Uniti a un attacco preventivo in Iran per fermare il programma atomico. E questa mattina ci sono stati due attentati in Iran, colpiti due protagonisti del tentativo degli ayatollah di dotarsi di un'arma atomica. Sono due docenti scienziati nucleari le cui auto sono state fatte saltare in aria con una bomba. Uno dei due è morto, l'altro gravemente ferito. Il Ministero dell'Interno iraniano ha accusato i servizi segreti di Israele e Stati Uniti. Veniamo in Italia, voltiamo pagina. Ancora nessuna notizia nel Bergamasco, dove è scomparsa una ragazzina di 13 anni. Sono riprese questa mattina all'alba in provincia di Bergamo le ricerche di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra, di cui non si hanno più notizie da venerdì pomeriggio. Setacciate dai militari, finora senza esito, tutte le aree circostanti il paese, compresi i casolari abbandonati e il letto dei fiumi. Al vaglio degli inquirenti anche le numerose segnalazioni ricevute nelle ultime ore, compresa quella di un giovane che ieri in TV aveva dichiarato di aver visto Yara vicino alla sua abitazione in compagnia di due uomini. Ma la testimonianza pare non avere alcun fondamento. Il giovane ne si sarebbe inventato tutto e ora rischia pure una denuncia. Della giovane promessa della ginnastica ritmica, che indossava un pantacollan di colore nero e un giubbotto nero firmato Hello Kitty, come si legge online sul sito del comune di Brembate di Sopra, si sono perse le tracce dopo essere andata a consegnare uno stereo alle compagne di squadra. Alle 18.30 è uscita dal palasport del paese, che si trova a poca distanza da casa, e da allora nessuno l'ha più vista. Il suo cellulare risulta spento dalle 18.49. Per i genitori non c'è alcun motivo plausibile che ne giustifichi che la scomparsa. La ragazzina andava bene a scuola e non aveva mai avuto problemi. Ora il PM Letizia Ruggeri, che coordina le indagini, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torna domani in aula per l'approvazione della riforma dell'università alla Camera. Oggi giornata più tranquilla, ma gli studenti non hanno interrotto la loro protesta, che anzi dilaga anche fuori confini. Ha fatto tappa anche all'interno degli scavi di Pompei oggi la protesta dell'università. Stamattina un gruppo di ricercatori ha esposto uno striscione contro il governo e la riforma Gelmini, mentre le proteste proseguono in tutta Italia ma anche all'estero. Ricercatori e studenti italiani hanno infatti protestato sempre stamattina anche sul tetto del CERN di Ginevra. Le occupazioni dei tetti delle facoltà vanno avanti anche a Roma e ad Ancona. A Venezia è stato occupato il tetto di un palazzo sul Canal Grande, a Potenza quello del campus universitario. Circa 100 studenti all'Aquila hanno invece occupato la facoltà di scienze. Le proteste proseguono poi anche in Sardegna, a Sassari e a Cagliari, dove gli studenti scenderanno in piazza nel pomeriggio. La manifestazione più attesa resta comunque quella in programma domattina a Roma. Gli studenti torneranno a protestare davanti alla Camera dei Deputati, dove è previsto il via libera alla riforma Gelmini, che poi passerà all'esame del Senato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Studenti in piazza che non sono una novità. Facciamo allora un passo indietro. In principio fu il 68 la protesta delle università americane e parigine sbarcata anche in Italia carica di ideologie marxisteggianti. Poi gli anni 70, monopolizzati dal terrorismo, quindi il ristagno degli 80, infine il risveglio. Nel 1990 il ministro Ruberti apre l'università ai privati, nasce un grande movimento di studenti che la contrasterà, la Pantera. Da Palermo a Roma, a Firenze, vengono occupate praticamente tutte le università, il ritmo è scandito dai rap sincopati degli Onda Rossa Posse. I ragazzi della Pantera, nome ideato da alcuni pubblicitari, si dichiarano apartitici, democratici, non violenti e antifascisti. Rispetto agli anni 70 c'è più concretezza, meno opuscoli politici in giro e più leggerezza. La protesta ottiene alcuni risultati, gli universitari rientrano negli organi decisionali degli Atenei. Nel 94 nasce il sindacato degli studenti, ma intanto il fermento si sposta nei centri sociali. Da allora gli studenti sono tornati a farsi sentire ogni volta che si è parlato di ingresso dei privati in scuole e università. Svariate contestazioni si sono abbattute sul ministro Moratti dal 2001 in avanti. Oggi in campo c'è la rete degli studenti. Le piazze che si riempono sono sempre più quelle virtuali dei social network e dei siti di notizie. L'azione è più sporadica, spesso però si somma a quella di docenti e ricercatori. Per l'attuale ministro Gelmini è il segno che i ragazzi stanno coi baroni. Forse però c'è una ragione se studenti e insegnanti solidarizzano la tendenza al risparmio che riguarda la scuola pubblica da anni. Nel 2010 su 33 paesi OCSE l'Italia per investimenti è, indovinate, penultima. Alessio Maurizi, Radio 24, Sole 24 Ore. E tregua in queste ore sul fronte del maltempo, ma secondo i meteorologi si tratta solo di una pausa. Delle piogge dovrebbero ricominciare a cadere già dalla serata di domani, con neve in Piemonte e Lombardia. Le 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24, diplomazia sotto scacco, i governi imbarazzati non replicano a Wikileaks, noi sereni, dice Frattini. Berlusconi in Libia, Gheddafi chiede altre 5 miliardi all'Europa per fermare i clandestini. Avanti, piano, l'economia italiana riprende ma non decolla, secondo Bruxelles, a trascinare è la Germania. Scomparsa da venerdì una ragazzina di 13 anni nel Bergamasco, ancora nessuna traccia. Nell'Eurozona è la Germania a dare il là alla crescita, la Francia si deve accontentare di seguire a distanza, l'Italia cresce ancora meno. È il quadro che emerge dai dati diffusi a Bruxelles il giorno dopo il piano di salvataggio per l'Irlanda. Noi allora ripartiamo da qui, è rimasta con noi Deborah Rosciani, ancora buongiorno. Sì Anna, buongiorno, la ripresa dell'Eurozona c'è ma resta diseguale fra paese e paese e rimarrà sotto il 2% nei prossimi 3 anni. Questa è l'analisi del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn, che oggi ha presentato le nuove previsioni economiche di Bruxelles. Il PIL della zona euro è stato rivisto al rialzo all'1,7% nel 2010, poi scenderà all'1,5% nel 2011, risalirà all'1,8% nel 2012. A trainare, come dicevi, la Germania, il cui PIL quest'anno metterà a segno un più 3,7% contro l'1,8% del Regno Unito, l'1,6% della Francia, l'1,1% dell'Italia. Restano in recessione Spagna e Irlanda e la Grecia, che addirittura crollerà del 4,2%. La Commissione europea ha dunque rivisto al rialzo rispetto alla scorsa primavera le previsioni di crescita dell'Italia. Nel 2010 il PIL del nostro paese si attesterà, come si diceva, all'1,1%, nel 2011 si manterrà sullo stesso livello, nel 2012 a politiche invariate salirà all'1,4%. È una buona indicazione, però resterà sotto la media europea. Una veloce analisi sulla capacità dell'economia italiana di riprendersi rapidamente: a pesare, secondo Bruxelles, le debolezze strutturali come la crescita insoddisfacente della produttività. Velocemente, Anna, ti dico anche come si sta comportando la borsa oggi all'indomani del piano di salvataggio per l'Irlanda. Le borse erano partite con una reazione positiva, modesta, poi si sono rafforzate nella mattinata. Improvvisamente c'è stato un cambio di direzione, le banche scendono di nuovo giù in tutta Europa, trascinano a ribasso i listini. La peggior piazza è Milano, che perde l'1,15%, segue Parigi -0,97%, Francoforte -0,7%, Londra -0,42% ed euro su dollaro sempre più giù a 1,31,52. È tutto. E grazie a Deborah Rosciani. C'è un'altra notizia degli ultimi minuti, l'avete appena sentita nei nostri titoli. L'Unione Europea dia 5 miliardi di euro alla Libia per fermare i clandestini, altrimenti un altro continente si riverserà in Europa. È quanto è tornato a chiedere durante il vertice in corso a Tripoli, vertice Europa-Africa e il leader libico Mohamed Gheddafi. A Tripoli c'è anche il premier italiano Silvio Berlusconi. La richiesta avanzata da Gheddafi era già stata presentata in agosto a Roma. Ci sono altri dati sull'economia italiana diffusi questa mattina. Le retribuzioni contrattuali orarie ottobre hanno registrato una variazione nulla su settembre, sono aumentate dell'1,5% su base annua. Sono questi i dati Istat che sottolineano che il dato tendenziale è il più basso dal marzo del 1999 e rimane sotto il livello dell'inflazione che era più 1,7% a ottobre. Quello che torna a salire sono i prezzi dei carburanti, livelli che non si vedevano da tempo. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, è necessario risalire all'ottobre del 2008 per avere prezzi simili. Anche allora il diesel sfondò il muro dell'1,3 euro al litro. Per quanto riguarda la benzina, non è una novità trovare la verde a questi livelli. Secondo le rilevazioni di Staffetta quotidiane è a un passo da 1,42 euro al litro. Ci sono piccole variazioni poi in base alla compagnia considerata, 1,414 per Esso Kuwait e 1,419 al litro per Erg, Shell, Tamoil e Total. Per il gasolio gli stimi oscillano invece tra 1,285 euro al litro e il massimo di 1,304 euro. Quanto all'Eni, particolarmente penalizzate alcune regioni, per la benzina le punte massime si evidenziano infatti in Campania e Sicilia. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori, è ora di porre un freno a questo andamento intollerabile che di giorno in giorno pesa sempre di più sulle tasche dei cittadini, affermano Adusbef e Federconsumatori. Di listini astronomici parla il Codacons. Dall'Unione Petrolifera a replicare il presidente Pasquale De Vita che dice il prezzo medio che si paga in Italia è sostanzialmente allineato a quello europeo. E da Roma è tutto. E grazie anche a Vincenzo Miglietta. Pensionato insospettabile invece era un mostro. Torniamo a riaprire la pagina della cronaca. A Siracusa arrestato un pluriomicida e a Siracusa andiamo da Orazio Vecchio. Buongiorno. Sì, buongiorno, è un cold case alla siciliana, risolto dopo quasi 20 anni di omicidi e tentati omicidi. Una lunga scia di sangue e di terrore, quella che il mostro di Cassibile si è lasciato alle spalle nel piccolo centro a pochi chilometri da Siracusa, dove tra il 1997 e il 2004 sono state assassinate una decina di persone e fino allo scorso anno sono proseguiti misteriosi atti di intimidazione. Oggi la svolta nelle indagini, il presunto serial killer risponde al nome di Giuseppe Raeli, pensionato incensurato di 69 anni, arrestato all'alba nell'ambito di un blitz dei carabinieri che hanno eseguito l'ordinanza del GIP. In apparenza ad accomunare gli omicidi erano soltanto lo stesso fucile calibro 12 e le modalità efferate dell'esecuzione, ma gli inquirenti hanno scoperto altri legami. Il capo della procura di Siracusa, Ugo Rossi. Il movente è diverso ma è legato sempre al denaro, cioè per farla breve, visto che l'intervista non può che essere breve, tutti gli omicidi, tutti i fatti di sangue che abbiamo esaminato, anche i danneggiamenti, hanno tutti quanti lo stesso identico movente e tutti quanti hanno il modo di operare identico, è un modo particolarissimo che non si riscontra normalmente e quindi dà veramente, mette una firma nei delitti. L'uomo adesso è rinchiuso in carcere in isolamento, a suo carico le accuse di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di armi. Da Siracusa è tutto, linea allo studio. E andiamo a Napoli, dove è partito questa mattina il piano straordinario di raccolta dei rifiuti a cui partecipano anche i 400 militari. Per ora si lavora a quarto e per noi in strada c'è Paolo Picone. Paolo. Sì, buongiorno. Militari in azione stamani a Quarto, in provincia di Napoli, uno dei comuni più colpiti dall'emergenza rifiuti. Gli uomini del Genio Guastatori hanno provveduto a bordo di una quindicina di automezzi alla rimozione di cumuli di spazzatura, in particolare in via Madre Teresa di Calcutta, dove si era formato un vero e proprio muro di pattume non raccolto lungo circa 200 metri. Gli uomini dell'esercito stanno lavorando insieme a quelli dell'azienda locale per la raccolta dei rifiuti. Da oggi l'esercito ha schierato circa 400 uomini del 21esimo Genio Guastatori, reparto inquadrato nella brigata Garibaldi di Caserta. Da questa notte intanto migliora la situazione anche a Napoli, che potrà conferire in altre due province campane quantitativi contingentati di rifiuti e questo potrà consentire l'ulteriore rimozione di giacenza nelle strade. Infatti si potrà scaricare nelle discariche della Vellinese e del Casertano fino al 15 dicembre 250 tonnellate di immondizia. immondizia. La situazione nelle strade di Napoli migliora, ora ci sono 2.500 tonnellate, come fa sapere il Comune di Napoli, a fronte delle 2.650 di ieri. Ma la gente continua ad essere qui molto arrabbiata per lo stato in cui versa la città. Ascoltiamo in proposito alcune voci raccolte questa mattina a Napoli e poi linea allo studio. Napoletani continuano a non differenziare la spazzatura, i contenitori della plastica ci sono, del vetro ci sono, ma se lei guarda qui è tutta plastica, vetro. L'organico, il nostro comune non ci ha mai pensato a impianti di compostaggio. La vera colpa dell'immondizia a Napoli è la camorra e i delinquenti. Degrado completo, quindi veramente è una città allo sbando. Siamo alla frutta, non ce la facciamo più, con tanto di tasse che paghiamo siamo nella discarica, a cielo aperto. Fiat cambia logo, arriveranno due marchi distinti per Fiat S.p.A. e Fiat Industrial S.p.A., la società che nasceranno il 1 gennaio 2011. Fiat, concentrata nel settore automobilistico, sarà contraddistinta da un logo che riporta la scritta Fiat con lettere allungate di colore blu. Fiat Industrial, rappresentata dai veicoli industriali, ha mantenuto l'iconografia che era stata creata per il Fiat Group. Oggi intanto l'amministratore delegato Sergio Marchionne sta incontrando a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana Milano, gli analisti. Nel pomeriggio a Torino ci sarà l'incontro tra i vertici dell'azienda e i sindacati. Venti di ripresa. L'Italia che riparte. Il 2009 sul 2008 ha avuto un calo del 12%, mentre invece il 2010 ha avuto un aumento del 15%. Santi Finocchiaro è il direttore generale della Dolphin, azienda dolciaria nata nel 1914 nel Catanese. Produce cioccolato, uova di Pasqua, in questo campo è il più grande produttore del Sud Italia, e poi ancora granite e ghiaccioli da gelare, i famosi polaretti. Qual è la strategia per uscire dalla crisi? Sentiamo Finocchiaro. Abbiamo aperto nuovi mercati all'estero, sia europei che extraeuropei, non so, dall'Australia a mercati europei. Poi abbiamo messo nuovi prodotti sul mercato perché abbiamo fatto una politica di diversificazione. Tutto questo fa sì che da un lato il fatturato aumenta, però l'aver immesso sul mercato nuovi prodotti ci ha portato a fare degli investimenti importanti in termini di innovazione, di ricerca, sia da un punto di vista marketing che da un punto di vista di laboratorio. Alessandra Tedesco, Radio 24, il Sole 24 Ore. E siamo il calcio, stasera a Barcellona la sfida in panchina tra Mourinho e Guardiola. Rimpianto a Milano, detestato in tutta la Spagna che non sia Madrid, sotto inchiesta UEFA per le espulsioni pilotate contro l'Ajax in Champions. Insomma, il solito José Mourinho, quello che stasera vivrà il suo primo classico sulla panchina delle Merengues. Il Barça è felice con Iturralde. Il Real Madrid è meno felice con i Torrado. Per non smentirsi, lo Special One accende la vigilia della partita dell'anno con una stoccata sull'arbitro Iturralde, con il quale, statistiche alla mano, il Barça avrebbe ottenuto risultati migliori dei bianchi madrileni. Schermaglie tattiche, si sa, come quelle di Guardiola, che ribatte di aspettarsi il bis della sfida di Champions dell'anno scorso contro l'Inter. Come dire che al Barça toccherà fare gioco, il Real punterà invece su difese e contropiede. Camp Nou tutto esaurito, in milioni davanti alla TV, magari anche Massimo Moratti, diviso tra la nostalgia per lo Special One e l'ammirazione per Guardiola, che in molti danno vicino, prima o poi, alla panchina interista. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore. In regia Fabio Cantadori, ancora un saluto da Anna Miglioratti, GR24 vi dà appuntamento alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.